9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiovedì 28 ottobre. Oggi dedichiamo la puntata a un tema che sta a cuore a centinaia di migliaia di imprese, soprattutto piccole imprese italiane. È il tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. E su questo tema il Parlamento europeo ha votato pochissimi giorni fa un testo importante, una norma, una direttiva che vincola a 30 giorni il termine ordinatorio perché le pubbliche amministrazioni regolino i loro debiti nei confronti dei privati, delle imprese, dei cittadini, e dentro 60 giorni il termine diventa poi perentorio. Cosa significa? Significa che dopo iniziano a scattare gli interessi di mora dell'8%. Naturalmente il tempo a disposizione è di 2 anni per mettersi in regola. Oggi vedremo come e se è possibile mettersi in regola. Pensate che in Italia la media è a molti mesi il pagamento ed è molto naturalmente peggiorata nel corso della crisi. Si calcola che siano tra i 50 e i 70 miliardi addirittura i crediti incagliati che vantano i privati nei confronti dello Stato in settori come le costruzioni, i lavori infrastrutturali, la sanità, soprattutto. Quindi il rispetto di questa regola sarebbe ossigeno assoluto per le imprese, sarebbe la differenza per molte di loro tra la sopravvivenza certa e il dover dipendere solo dal proroga della moratoria bancaria. Però molti dicono: come si fa ad attuare questa cosa? La mia proposta è un pochino tough, un pochino tosta, come nel nostro stile. La proposta è quella di mettere insieme sia le preoccupazioni del Tesoro, sia quelle delle imprese, però di punire anche i politici che hanno assunto impegni di spesa senza avere i soldi in cassa. E questa è un po' l'innovazione, quindi punire i politici significa adottare anche sanzioni patrimoniali nei loro confronti, almeno a tempo, e un po' fare come si è deciso di fare in sanità. Quando le regioni andranno al fallimento sanitario, i politici saranno incandidabili. Quando si tratta di soldi, però, e un ammontare di soldi per 5 punti di PIL, come è il caso dell'Italia in questo momento, la mia opinione è che dobbiamo iniziare anche a chiedere che i politici vengano di tasca loro a esserne in qualche misura responsabili, così ci pensano un po' meglio. E soprattutto questa è una norma per impedire che altrimenti ci vada solo di mezzo chi succede loro dopo un'elezione, si trova poi con le casse vuote a dover rispondere naturalmente degli impegni di spesa presi da altri e avendo le casse vuote. Perché questa proposta? Perché, ripeto, cerchiamo di ricordare a tutti come funziona la contabilità pubblica italiana. Funziona per cassa, non per competenza. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà, anche se avete regolarmente vinto una gara indetta da una pubblica amministrazione centrale o periferica per l'acquisizione di un bene o di un servizio da parte dello Stato, dal punto di vista del diritto privato voi avete, e dal punto di vista del diritto amministrativo, avete tutti i titoli per considerare a quel punto il credito che vantate per il prezzo, per il corrispettivo del bene o del servizio che dovete fornire, che avete fornito già alla pubblica amministrazione, vi viene garantito. Ma dal punto di vista della contabilità pubblica invece, naturalmente le cose stanno diversamente, perché essendo per cassa significa che quel debito esiste solo in quanto e dal momento in cui viene firmato un mandato per il suo almeno iniziale pagamento, o se una pubblica amministrazione emette una garanzia che renda il debito della pubblica amministrazione bancabile, cioè scontabile da una banca con quel titolo di garanzia vista, oppure renda quella garanzia trattabile sul mercato secondario, come capita esattamente con i titoli del debito pubblico che voi potete sottoscrivere e poi li potete anche cedere sul mercato secondario. Allora, finché non viene pagato o un mandato di pagamento o non viene emessa una garanzia reale, quel debito pubblico in realtà non esiste nella nostra contabilità nazionale. Quindi l'adottare la norma sottoscritta al Parlamento europeo inevitabilmente esporrebbe all'emersione di molti punti di PIL, e voi potete capire che a Tremonti questa cosa non piace, e ha ragione. Dall'altra parte però cosa si fa? Si aspetta 2 anni e non si fa nulla, quando per le imprese questo è ossigeno puro? E allora l'idea potrebbe essere questa: fare mettere garanzie sui debiti contratti magari da autonomie che sono impegnati nel patto di stabilità e hanno le casse vuote, fare mettere garanzie per il rispetto di questa norma da parte di Cassa Depositi e Prestiti, perché Cassa Depositi e Prestiti col suo bilancio non rientra nel perimetro del debito pubblico del nostro paese. paese. Punto numero uno, quindi non si fa debito pubblico aggiuntivo, il tesoro è contento. Secondo, però, bisogna adottare anche criteri di trasparenza, perché il tesoro dice su molti di quei debiti sanitari in regioni al sud, io non so se quei debiti siano davvero tutti regolari o se non siano figli di cose, amici degli amici. E allora in quel caso, prima della garanzia che rende scontabile in banca il credito, la sezione specializzata delle autonomie della Corte dei Conti dovrebbe metterci il naso. Tre, non solo a quel punto l'ente pubblico, se è stretto dalle norme vincolanti del patto di stabilità interna, deve prendere un ulteriore vincolo in caso di sconto dei suoi crediti che non può regolare e quindi spenda di meno nel successivo esercizio, ma soprattutto la mia proposta, sulla quale vi chiedo di telefonare per sapere se siete d'accordo, è: li vogliamo punire anche patrimonialmente i politici? Ecco, questa è la mia idea. Voi direte un po' populista? No, io dico che bisogna cambiare dal basso le regole per renderle trasparenti, rigorose, ma anche solvibili, cioè in grado di pagare i loro debiti come capita per tutti. Ultima osservazione, è vero che nella crisi c'è anche un problema che riguarda il pagamento dei debiti privati. Molti piccoli imprenditori lamentano che i grandi gruppi privati si prendano mesi e mesi per pagare. C'è anche questa questione, è sempre stata presente nel dibattito, ma la cosa che vi chiedo di sapere da voi, oltre che dirci come ve la passate, se avete significativamente visto qualche cambiamento nei tempi di pagamento della pubblica amministrazione nella crisi, e vi chiedo anche un'opinione precisa, siete d'accordo o meno nell'adottare sanzioni patrimoniali a tempo nei confronti dei politici che hanno preso questi begli impegni di spesa, scoprendo poi solo dopo che non erano in grado di pagarvi. Allora, vediamo un pochino intanto di far pagare il loro giusto prezzo, quello che fanno a favore invece delle imprese con norme nuove, tempi più certi. E quindi iniziamo con gli ospiti di questa prima parte, che sono due. Abbiamo con noi Lara Comi, che è vicepresidente della Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori al Parlamento Europeo, e quindi ci spiega come nasce questa norma e cosa può voler dire concretamente, e che saluto. Buongiorno onorevole Comi. Buongiorno a voi. E Raffaello Vignali, che è vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera. I nostri ascoltatori lo conoscono, abbiamo più volte parlato con lui di questo manifesto della piccola impresa che è in via di approvazione in Parlamento e che deve praticamente la sua paternità alla testa dura dell'onorevole Vignali. Buongiorno anche onorevole Vignali. Buongiorno Oscar, buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori. Allora, onorevole Comi, come nasce questa norma e soprattutto come si può applicare nei diversi paesi? Qual è la condizione a oggi nei diversi paesi sui pagamenti? Ma innanzitutto dobbiamo dire che è stata una direttiva approvata in prima lettura, quindi è avvenuta con un accordo del Consiglio. Questo vuol dire che è proprio un'esigenza che le piccole e medie imprese hanno espresso per avere una maggior liquidità all'interno del sistema. È raro che già in prima lettura si possa avere una conclusione di questo di questa direttiva sul late payment, che è stata molto molto discussa, perché le tematiche erano riguardo le tempistiche. Paesi del nord, tra i quali abbiamo anche la Germania, proponevano sia per il settore B2B che per il settore pubblico i famosi 30 giorni senza nessun tipo di deroga. Naturalmente questo per l'Italia avrebbe creato molte difficoltà. Tremonti non era particolarmente soddisfatto di questa direttiva, ma il commissario Tajani, con tutta naturalmente la squadra europea, abbiamo ritenuto che fosse necessario un adeguamento europeo e una stretta sulle tempistiche e il ritardo dei pagamenti. Sui giornali di oggi, la interrompo solo per dire che sui giornali di oggi gli ascoltatori e gli elettori italiani trovano tutte le conferme di quello che dice, con un po' di chiarimenti ieri tra il Premier e il Ministro dell'Economia in materia al mille proroghe, agli stanziamenti proprio per le materie che riguardano le imprese. Prego Comi. Sì, ecco, l'altro passaggio è quello dei 24 mesi, cioè il recepimento di questa direttiva deve avvenire a partire dal 1 gennaio, può venire dal 1 gennaio del 2011, quindi sarà già in Gazzetta Ufficiale a dicembre. Questo vuol dire che i tempi sono assolutamente stretti. Parliamo quindi di un B2B che può avere i 30 giorni se non viene indicata nessuna clausola particolare nel contratto, fino a un massimo di 60 giorni se vi è un accordo tra le parti. La clausola che noi abbiamo inserito è molto importante, ovvero che la determinazione dei 60 giorni deve essere accettata dal creditore e non può essere un aspetto negativo appunto per il creditore stesso, che nella maggior parte dei casi è costituito da piccole e medie imprese. Il problema si crea nella pubblica amministrazione ed è questo anche un passaggio che lei aveva fatto precedentemente. Si passa da un 30 giorni in linea generale per poi arrivare a un massimo di 60 giorni per le spese sanitarie e casi particolari. Il caso particolare può essere l'investimento in infrastrutture che naturalmente ha un importo ma abbastanza elevato. Quello che abbiamo migliorato rispetto alla direttiva precedente, perché ricordiamo che già qualche anno fa era presente una direttiva sul ritardo di pagamenti, ma non ha mai avuto grande successo. In questo caso abbiamo deciso di incrementare la cosiddetta penalty, ovvero il tasso della BCE che viene stabilito quindi centralmente a livello europeo più un 8%. Tutto questo, il ritardo viene e inizia dalla data di ricevimento della fattura. Questo è anche un passaggio perché la volontà, e su questo anche un coinvolgimento del ministro Brunetta, è quello di informatizzare proprio tutti i sistemi, anche la pubblica amministrazione, nell'erogazione delle fatture, nella comunicazione delle fatture stesse. Dovrebbero essere fatte tutte in modo telematico. Bene, naturalmente la speranza è che questa volontà che il Parlamento europeo ha espresso in questi tempi e con questa convergenza così significativa adesso si trovi anche nel meccanismo di attuazione nel nostro paese. Io ripeto, bisogna dare atto al Tesoro che la preoccupazione di non far emergere di botto punti di debito pubblico aggiuntivo è una preoccupazione di rigore più che comprensibile. Dall'altra parte però è molto singolare che lo Stato sia il primo a dare, per così dire, il cattivo esempio sui tempi, la regolarità e la certezza del diritto dei pagamenti e degli incassi. Ecco, da questo punto di vista, onorevole Vignali, sì, dica come. Volevo fare solo l'ultima precisazione sul patto di stabilità, perché è una critica che viene posta nel confronto dei ritardi dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, dice ma noi non riusciamo a cercare di coprire il patto di stabilità. Su questo stiamo cercando di portare avanti anche una revisione, perché non è corretto che nel patto di stabilità vengano inseriti gli investimenti e questo porterebbe naturalmente a un problema anche per il ritardo dei pagamenti e di sforamento del patto di stabilità. E su questo, ohimè, i tedeschi sono sempre stati abbastanza restii, ricordiamo tutti gli sforzi in questi anni per adire per esempio un canale di accendere un debito pubblico per la prima volta comune per coprire gli investimenti, e su questo non ci hanno mai sentito. E del resto però il ministro Tremonti fa presente che se non c'è una deroga per gli investimenti a livello comunitario, come fa lui ad accettare una deroga al patto di stabilità interno per le spese per investimenti? E su questo, diciamo, il braccio di ferro, o meglio il confronto in quest'ultimo anno con le rappresentanze delle autonomie è andato avanti, ma per il momento lo sblocco non è ancora avvenuto. Onorevole Vignali, dal punto di vista dei meccanismi di attuazione, una volta che abbiamo presente che dobbiamo tenere in considerazione le preoccupazioni del Tesoro e dall'altra parte tentare però a questo punto di adeguarci il prima possibile al voto del Parlamento europeo, perché per moltissime imprese italiane quei 50, 60, 70 miliardi sono veramente la sopravvivenza. Come si potrebbe fare dal suo punto di vista? Io credo che la proposta che faceva all'inizio sia quella giusta, cioè bisogna separare lo stock di debito che comunque c'è, anche se non è contabilizzato, dai flussi, decidere la data da cui si riparte a pagare regolarmente, quindi entro i 60 giorni. E si tratta lo stock, appunto, secondo me la strada di trattarlo con Cassa Depositi e Prestiti, con le garanzie, la Corte dei Conti. Io credo fra l'altro che il costo anche di questa operazione sarebbe inferiore allo sconto che possiamo ottenere dai creditori. Da questo punto di vista è quello che fa qualunque impresa che abbia un debito con la banca, lo va a ristrutturare. Nello stesso tempo il problema delle liquidità c'è, perché io penso soprattutto alle aziende del manifatturiero, ormai devono pagare le materie prime in contanti alla consegna, se no non avvengono più le consegne. Nello stesso tempo non incassano le fatture, le banche non scontano i crediti, e questo è un problema serio. Il lavoro ci sarebbe anche, ma proprio manca l'ossigeno della liquidità, e questo vale sia nel rapporto tra i privati evidentemente che nel rapporto tra le imprese. Fra l'altro nello statuto noi abbiamo previsto di allargare su questo tema dei pagamenti i poteri dell'antitrust, perché si configura anche come abuso di posizione dominante relativa. Io credo che non possiamo non preoccuparci di questo. Il problema è vero che c'è, Tremonti ha tutte le ragioni del mondo, però non possiamo continuare a trascinarlo, ma dobbiamo iniziare ad affrontarlo. Da questo punto di vista, io cito solo un esempio straniero, circa 15 anni fa la Svizzera per la sanità mise in rete fornitori, pubblica amministrazione, quindi ospedali e banche, in modo che le banche scontassero immediatamente. Soltanto il primo anno il risparmio per le casse svizzere è stato del 17%, perché quando si paga male si paga di più, fra l'altro, quindi oltre ovviamente a creare un danno per l'economia. Sulla direttiva io credo che ci debbano essere alcune aspetti da considerare. Il primo che purtroppo io ho visto, però manca completamente l'aspetto, qualche norma che riguardi l'intermediario, cioè le banche, che non c'è. Secondo, io credo che bisogna prevedere assolutamente il divieto di mettere clausole compromissorie, perché se no è chiaro che in qualunque contratto privato o della PA si mettono clausole compromissorie che l'impresa è costretta a subire, pena l'esclusione. E l'altro aspetto, io credo che anche sulla questione ricevimento fattura bisogna mettere un po' di attenzione, perché ormai appunto non solo la PA ma anche i privati tanto impongono alle imprese di emettere la fattura quando lo dicono loro. Io credo che bisogna anche collegare tutto questo al ricevimento della merce o del servizio. Se non ci sono contestazioni, la fattura deve essere emessa entro un mese e dentro due mesi deve essere pagata. Però normalmente quello che accade è che l'impresa o la pubblica amministrazione dicono la fattura la emetti quando te lo dico io, e quindi in questo modo però facciamo una norma che è assolutamente finta, che non risolve il problema delle imprese. Allora, ricapitolando, per l'onorevole Vignali si potrebbe fare così. Lui l'ha detto con un termine preciso, io voglio rispiegarlo un secondo a chi è a casa per vedere se lo abbiamo capito tutti. Da un certo giorno, se partiamo con la procedura di attuazione, da un certo giorno si inizia a decidere di pagare, nel rispetto dei 30 giorni, massimo 60 giorni, poi scatta l'8% di interessi di mora, i crediti che i privati hanno nei confronti della pubblica amministrazione. Da un certo giorno può voler dire anche da un certo giorno del credito che ogni privato ha accumulato da mesi e mesi e mesi nei confronti della pubblica amministrazione, e si inizia a quel punto regolarmente a pagare. Il resto che invece la pubblica amministrazione che ha contratto quel debito non è in condizione di pagare subito, magari perché è sottoposta a un vincolo del patto di stabilità interno, il resto, come tutte le ristrutturazioni del debito, va incontro a una, diciamo, a una ricontrattazione pur di averlo al più presto possibile, magari fatta con la triangolazione con un intermediario bancario. Per questo c'è bisogno effettivamente di un accordo. La mia opinione è che infatti se coinvolgiamo Cassa Depositi e Prestiti, nella cui proprietà c'è il sistema bancario, ci sono le banche, ci sono le fondazioni, è più agevole raggiungere un tipo di convergenza tecnica su un meccanismo che a quel punto fa intervenire la cassa che non fa debito pubblico per iniziare a regolarizzare il pagamento del pregresso, certifica però la legittimità del debito acceso dalla pubblica amministrazione, perché è vero secondo me che in sanità in alcuni casi ci sono delle cose su cui prima di pagarle bisogna andare a rivedere. Terzo però, e continuo a dirvelo, la mia opinione è che oltre a prevedere limiti ulteriori di spesa per quella parte di pubblica amministrazione che si è comportata disinvoltamente, la mia opinione è che bisogna assumere un criterio preciso. Quando ci sono diritti privati di terzi calpestati dalla pubblica amministrazione, non possiamo più avere un ordinamento che mette solo dei vincoli successivi alla capacità di spesa di quell'ente pubblico, perché tanto chi viene dopo se ne frega di questo. Allora ci vogliono sanzioni anche personali, magari a tempo, ma costruite sul reddito disponibile, sul patrimonio di chi politicamente ha preso la decisione di prendere impegni di spesa quando doveva sapere che o non poteva a quel punto onorarli perché sottoposto a un patto di stabilità, o che comunque le sue casse erano vuote. Perché a quel punto, con questo comportamento disinvolto, se noi non accettiamo l'idea che ne risponda patrimonialmente, noi non ammetteremo mai la responsabilità dell'uomo politico al centro di una maniera diversa di comportarsi dello Stato. Così lo Stato ha uno stimolo in più per chi ne risponde politicamente a essere corretto, altrimenti lo Stato diventa quello che vediamo tutti i giorni, non pagando, è lui il corruttore e il generatore di corruzione nella vita italiana. Pubblicità. Eccoci tornati su questo punto: come si fa ad attuare la norma del Parlamento europeo che dice la pubblica amministrazione 30 giorni per regolarizzi sui pagamenti, 60 giorni al massimo, altrimenti scattano gli interessi di mora dell'8%. La realtà testimoniata da Confindustria, da Rete Italia e di settori in cui la pubblica amministrazione è indietro di moltissimi mesi e in alcuni casi di anni e anni, di 4 o 5 anni addirittura nel pagamento dei suoi impegni di spesa, contratti nei confronti dell'impresa e di privati. E iniziamo a sentire infatti un pochino di opinioni di imprenditori in questa seconda parte. Si è comunque fermato con noi l'onorevole Vignani come interlocutore politico, ma abbiamo con noi adesso Paolo Buzzetti, che è il presidente dell'ANCI. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Davide Cervellin, che ricordate più volte è stato nostro ospite su questo tema, fondatore e presidente di Tiflo System, e che ha raccontato molte volte la sua esperienza di imprenditore con crediti pendenti nei confronti di amministrazione pubblica, Regione Lazio, se non ricordo male, crediti di durata incommensurabile, praticamente omerica, come il viaggio di ritorno a Itaca di Ulisse, che saluto e ringrazio Cervellini, e sentiremo a che punto sta con la sua ristrutturazione del credito. Grazie Cervellini, buongiorno. Buongiorno. Allora, presidente Buzzetti, nell'ANCE, che è uno dei settori che già andava male prima della crisi e continuate ad andare male nella crisi, malgrado quello che dicevano i politici, non siamo riusciti a sbloccare le norme, le regole, a fare i lavori, le piccole opere localmente. In tutto questo, a che punto stiamo con i tempi di pagamento nel vostro settore? Malissimo, sta diventando un elemento dirompente, perché si può naturalmente fallire sul piano finanziario e non sul piano economico per mancanza di denari. Noi abbiamo il 44% delle imprese che sostanzialmente arriva oltre i 6 mesi e abbiamo punte fino al 30-35% che va oltre l'anno, l'anno e mezzo, per non parlare di casi che arrivano a 2 anni. Naturalmente non si può far fallire le imprese per non far fallire l'amministrazione pubblica. Il patto di stabilità ha prodotto un gravissimo peggioramento della situazione, determinando di conseguenza questa grande difficoltà finanziaria. Direi che questo è intollerabile nella convivenza, diciamo, di un rapporto sociale di un paese che deve affrontare una crisi durissima. Quindi qualche soluzione bisogna trovarla. Su questo dubbi non ce ne sono. Ci sono delle diversificazioni territoriali sufficientemente forti o il problema è ugualmente in allarme in tutta Italia? Il problema è in allarme in tutta Italia, dipende dai singoli enti che naturalmente pagano, che naturalmente non lo fanno apposta a non pagare, e quindi dipende dalle condizioni di cassa che hanno. Però logicamente mi riferivo ad esempio al patto di stabilità per quanto riguarda gli enti locali, ma questo riguarda anche i grandi enti pubblici, e naturalmente c'è una carenza di cui ci rendiamo conto tutti di denaro pubblico, e su questo non si discute. Però naturalmente l'ente che si ritrova coi vincoli del patto, anche se virtuoso, diciamo, deve rimandare i pagamenti. Questo elemento sta progressivamente peggiorando a seguito del peggiorare della crisi, perché purtroppo non c'è stata ripresa e comunque la liquidità generale sta diminuendo fortemente. Allora è un problema sicuramente ormai nazionale ed è un problema che sta aggravandosi sensibilmente. Cassa Depositi e Prestiti, SACE, sono e anche i principali istituti di credito hanno stanno studiando, perché noi abbiamo rapporti costanti con loro e anche devo dire sul governo su questo, per cercare assolutamente di trovare una soluzione. Quello che non possiamo, diciamo, e noi sosteniamo che non è accettabile, è che si trasmetta la condizione di difficoltà del pubblico dal punto di vista della liquidità, la situazione trasferisca alle imprese, perché questo poi produce licenziamenti, produce perdita di posti nel privato, produce alla lunga fenomeni di questo genere, possono contribuire fortemente in questo momento di crisi a creare deindustrializzazione, soprattutto sul tessuto più piccolo. Voglio aggiungere un'altra cosa, è tutta la filiera che poi non viene pagata, e nel privato, devo dire, questo è anche un punto va sottolineato, non è che va meglio, cioè anche nel privato si paga male, e questo è allora un costume nazionale che va fortemente invertito. L'Europa ci parla di 30 giorni, di 60 giorni, e questo, voglio dire, siamo lontani anni luce. Anche qui, per andare verso la modernità e fare quelle trasformazioni strutturali che sono fondamentali, anche questo dei pagamenti, e lo dico dappertutto, nel mondo pubblico e nel mondo privato, naturalmente il mondo pubblico deve dare l'esempio per primo, ci vuole ritornare a una ragionevole, perché non si può pagare, l'amministrazione pubblica non posso pagare tutto subito, se no chiudiamo complessivamente il paese, questo lo capiamo, ma ci deve essere assolutamente un limite massimo, che non saranno i 60 giorni, ma dopo il quale interviene un meccanismo, e le ripeto, Cassa Depositi e Prestiti, SACE, banche, questo meccanismo lo possono dare, bisogna che lo riusciamo ad attivare. Ecco, questi sono i termini della riflessione in corso, e la gravità e l'allarme che viene dal mondo delle imprese. Sentite, responsabilmente si ammette e si denuncia anche il problema che riguarda la lentezza eccessiva dei pagamenti anche tra privati, tra grandi gruppi e filiere di fornitori e subfornitori. Questo è un problema serio, c'è chi dice che Fiat paga 6 mesi da anni e anni, ci sono le vostre SMS qui che me lo confermano. Una cosa è sicura, c'è un punto di questi detti da Buzzetti che richiamo a tutti: se pagasse tutto il pubblico, lo Stato fallirebbe. Su questa base, con un po' di amici, con l'Istituto Bruno Leoni, abbiamo messo a punto il timer del debito pubblico italiano. Ci siamo resi conto che non c'è da nessuna parte automatico quello che c'è a Times Square, e quindi l'abbiamo fatto elaborare. Per il momento lo trovate solo sul nostro sito, cioè quanto di secondo in secondo si aggiorna il debito pubblico del nostro paese e qual è la vostra quota di ciascuno individuale. Quindi lo trovate sull'Istituto Bruno Leoni e da domani anche sul sito del Chicago Blog che dirigo. Però la nostra idea è di metterlo in 3 grandi piazze italiane, a Milano, a Roma, a Torino, tanto per cominciare, come volontari del Bruno Leoni pensiamo che avere dei bei timer che aggiornano di secondo in secondo la quota individuale di ciascuno di noi e il totale del debito pubblico sotto gli occhi di tutti sia una maniera per richiamare i responsabili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni a che quel diabolico conto, che per quello che mi riguarda è più terribile della quello che mancava alla guerra atomica nucleare, si fermi. Perché avercelo sotto il naso e vedere di secondo in secondo di quante migliaia e migliaia di euro si appesantisce dà una certa impressione, devo dirvi la verità. Iniziamo con alcune telefonate, sentiamo Oscar da Bolzano, che esperienza ha su questa regolarità dei pagamenti, si fa per dire, della pubblica amministrazione. Prego Oscar. Buongiorno, grazie di avermi fatto parlare. Praticamente quello che vorrei dire io, in altra maniera, è già stato detto. Vorrei specificare, io sono un fornitore dei dettaglianti che servono le ASL. Io ho dei clienti specificatamente Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, ma anche nel centro, qualcosa in centro nord, che devono aspettare da 1 anno a 2 anni i pagamenti delle loro forniture e non possono fare nulla, perché se questi signori con i quali io collaboro e che capisco, e sono anche amici perché soffriamo dello stesso male, si azzardano a fare una qualunque azione di rivalsa, perdono immediatamente la possibilità di lavorare con l'altro. Ecco, e questo è una vergogna. Questo è il punto, perché fino a questo momento la cosa segnalata quasi dovunque è chi alzava la testa, cioè chiedeva il rispetto di un diritto attraverso la sua certificazione, da quel momento in poi veniva escluso dalle procedure di gara, praticamente come elemento riottoso, per così dire, pericoloso. Grazie a Oscar da Bolzano. Sentiamo l'esperienza di Francesco da Bari invece. Francesco, nel suo caso di che si tratta? Di che settore? Buongiorno a tutti. Io sono il responsabile di una filiale che somministra una cosa molto importante agli ospedali, i gas medicali, quindi sì, anche l'ossigeno. Sì. Noi lo forniamo sostanzialmente almeno settimanalmente. L'esperienza è molto simile al signore precedente, il problema è che ci sono, io opero in quasi tutto il sud, la mia filiale è a Bari, ma lavoro sia in Puglia che in Basilicata, arrivo in provincia di Salerno e anche la Calabria. E sui tempi dei pagamenti com'è stata? Allora, per quanto riguarda la Puglia siamo intorno ai 6-8 mesi. Tenga conto che il mio è un contratto di somministrazione, cioè io non faccio una fornitura e poi mi fermo. Io devo, sono obbligato a portare. Lei deve alimentare continuativamente. Assolutamente, come l'energia elettrica, come l'acqua, come i pasti tutti i giorni. E invece in Calabria e anche nel Salernitano saliamo tranquillamente a 16-18-20 mesi. Abbiamo provato con decreti aggiuntivi a smuovere un pochettino le cose, solo quando si arriva proprio scannati ti danno. Cioè io ho ricevuto quest'anno il pagamento del 2008. Ah, però devo dire che rispetto ai 2 mesi qui siamo sui 2 anni, come... Questo ci crea dei problemi anche in azienda, nel senso che ti credo. Il mio conto di filiale, visto che la mia è un centro di costo, ha dei problemi da questo punto di vista perché mi appesantisce tutto il resto. Grazie a Francesco Abbari, quindi come vedete la realtà è questa. Cervellin, allora Davide Cervellin, noi l'avevamo lasciata alle prese con una titanica battaglia con la Regione Lazio. Che cosa ha ottenuto e per quali ammontare? Allora, io ho ottenuto un po' di pagamenti dopo un accordo che ho firmato a maggio dell'anno scorso, ma anche su questo accordo non c'è stato un rispetto dei termini, per cui il pagamento fissato in 180 giorni, cioè 6 mesi, è scivolato oltre. Io sulle fatture emesse dopo l'accordo ho ancora un credito di circa 40.000 euro che ormai è a un anno dalla firma dell'accordo stesso. Dalla firma dell'accordo stesso, ma è relativo in realtà a fatture, a dei servizi... A fatture da maggio in poi, però io avanzo soldi antecedenti all'accordo, cioè quindi antecedenti a maggio del 2009, io ho un credito di circa 80.000 euro che parte dal 1994. 1994, avete sentito bene? Ecco, quindi 16 anni. Ma la cosa che mi fa specie, mi piace questa storia del timer, dell'orologio sul debito, è questo. Cioè, esiste questa situazione che ha ben evidenziato anche il Presidente dell'ANCE. Ma cosa fa lo Stato attraverso le sue organizzazioni, le ASL, i comuni, per razionalizzare la spesa, per creare meno debito? Io ho una sentenza, anzi un'ordinanza del TAR del Lazio, quindi restiamo sempre nel Lazio, che è l'ordinanza 5569 del 2 dicembre dell'anno scorso, che grida proprio allo scandalo. Cioè era stata fatta una gara per la fornitura di ausili agli ammalati di SLA nella Regione Lazio. La gara era stata vinta secondo i criteri della funzionalità e del prezzo. Il TAR del Lazio l'ha annullata questa gara, rivendicando il diritto di scelta da parte dell'assistito. Diritto di scelta che si è concretizzato nell'acquisto di un prodotto che costa 6.000 euro in più di quello che è il listino del prodotto stesso. Ecco, questo io credo che sia che cosa succede nel nostro paese per gonfiare enormemente la spesa pubblica e per non avere poi i soldi per pagare le forniture di chi opera in maniera corretta e in maniera onesta. Tenete presente poi che io, che mi sono esposto pubblicamente con la sospensione del pagamento dell'IRPEF e dell'IRAP come compensazione dei crediti, io che tanti soldi avanzavo dalle organizzazioni che fanno capo allo Stato, mi sono visto da un'organizzazione che posso definire pubblicamente delinquenziale, qual è Equitalia. Definiamola, voglio sottoscrivere la sua cosa, perché mi espongo volentieri. Ecco. Definiamola delinquenziale, sono d'accordo. Io mi sono visto con tutti i crediti che ho, e sono circa di 1 milione di euro con la pubblica amministrazione, io mi sono visto pignorare un pagamento dell'ASL 15 di Cittadella e Campo San Piero per appunto una denuncia pubblica che io avevo fatto sulla sospensione del pagamento dell'IRAP e dell'IRPEF. La devo fermare perché c'è un'informazione sulla circolazione stradale. Quando lo Stato fa debole e forte, come in questo caso, è uno Stato corrotto e corruttore. Ha ragione, secondo me, Cervellin, in questo caso è uno Stato anche delinquente. Circolazione stradale. Tornati in studio i nostri ascoltatori, SMS di tutti i tipi, per esempio Andrea da Torino, lavoro con l'ASL, il problema è anche l'impossibilità di ricevere informazioni sui ritardi, quindi non si può programmare neppure il ritardo sul ritardo. Un altro ascoltatore dice: ma se un ospedale tanto i soldi non ce l'ha, non è certo mettendo un termine perentorio che se li troverà a poterli dare a coloro ai quali ha comprato prodotti o servizi, quindi opterà per pagare gli interessi di mora e aumenterà ulteriormente il debito. E per questo infatti che io propongo anche di rendere patrimonialmente responsabili, almeno a tempo, i responsabili di queste spese. Un altro ascoltatore dice: ma Giannino, siamo diventati matti, è diventato qualunquista, in quale paese europeo i politici o i responsabili amministrativi rispondono patrimonialmente di quelli degli impegni della pubblica amministrazione? Risposta: c'è sempre il modo di cominciare, visto che noi abbiamo il debito pubblico che abbiamo e il ritardo dei pagamenti che abbiamo, per responsabilizzare chi pro tempore rappresenta lo Stato, perché è sulle gambe di una minoranza che occupa e amministra pro tempore lo Stato che va il debito pubblico. E io voglio vivere in un paese in cui c'è la responsabilità personale, perché fino a prova contraria lo Stato fiscalmente, penalmente, civilmente, amministrativamente nei confronti di Oscar Giannino la responsabilità personale la fa valere, e come se la fa valere, e i termini perentori dei pagamenti che chiede a me è come se li fa valere in termini perentori. Ecco, lo stesso voglio io con la minoranza pro tempore di persone che si arroga l'idea di capire che cos'è l'interesse pubblico e magari contrae debiti che poi qualcun altro nel pubblico deve pagare. Sentiamo ancora altre telefonate di ascoltatori. Gianluca da Milano, prego Gianluca. Sì, buongiorno. Io sono un funzionario della pubblica amministrazione, in particolare della provincia di Milano, e abbiamo delle situazioni veramente ci mettono in difficoltà nei confronti delle imprese. Abbiamo fatture ferme da aprile 2008, alcune le ultime pagate di quest'anno risalgono anch'esse in primavera, ad aprile di quest'anno. Sono delle situazioni davvero difficili e a noi stessi ci chiedono, io in particolare sono un funzionario tecnico e mi occupo di edilizia, e quello che diceva poc'anzi un vostro interlocutore, dove quando si paga male si paga di più, è immediatamente riscontrabile quando si chiedono alle imprese l'esecuzione di alcuni lavori in economia o altro, e sono proprio le indicazioni politiche che ci dicono risolvete in qualche modo. Insomma, ci mettono veramente in difficoltà. Oltremodo la provincia di Milano con il patto di stabilità come entrate ha pressoché nulla, perché più che altro offre servizi, perché le strade, le acque, l'istruzione, la scuola, le caserme non hanno una rendita, quindi le entrate della provincia sono talmente risigue che rispettare il patto di stabilità è, mio piccolo giudizio, è quasi impossibile. E quindi difficoltà duplici. Grazie a Gianluca da Milano e alla sua testimonianza. Luca da Vicenza. Sì, buongiorno. Io volevo porre un quesito a lei e agli organismi competenti. Io sono consigliere comunale e giusto l'altro giorno abbiamo deliberato una riduzione, un'estinzione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Sì. C'è un paradosso di fondo che non capisco, perché da una parte lo Stato ci dice abbassate il debito, dall'altra ci penalizza perché su questa estinzione anticipata abbiamo pagato circa 170.000 euro di interessi, di penale. Quindi non capisco come mai da una parte ci dicono riducete e poi vi... quello però temo di dover dire che la Cassa Depositi che tutela per così dire gli impieghi accantonati per il vostro... Sì, però una volta però questo non c'era, una volta c'era un incentivo fino a 4-5 anni fa e adesso l'hanno tolto, quindi non si capisce come mai invece di incentivare la riduzione del debito ci siano ancora queste penali. Giusto, e del resto se vogliamo che poi la cassa sia più una banca che uno sportello pubblico, allora a quel punto la banca fa così in effetti, e quindi però giustamente per gli amministratori locali c'è un'ulteriore contraddizione. Sentiamo ancora rapidamente Adriano da Milano, prego. Sì, buongiorno Oscar, quando lei parla di Stato corruttore, e in merito anche al suo ospite che diceva aziende private che cominciano a dilazionare i pagamenti, io le dico, io vendo a multinazionali, quando li vendo all'estero mi pagano a 30 giorni, quando li vendo in Italia a 120, e se non mi va bene ci sono sempre gli altri. Le stesse multinazionali, perché naturalmente a quel punto ciascuno adotta le cattive abitudini del mercato nazionale di riferimento. Certamente. stato corruttore, insomma. Ecco, grazie di questa testimonianza, perché sennò dicono che sono matto io, come sempre. Insomma, a me sembra di essere, sì, probabilmente ho la testa un po' calda, però non mi sembra di esagerare troppo. Onorevole Vignali, in conclusione, lei lo sa d'animo delle imprese, lo conosce, sa perfettamente, quando si è messo lì a tentare di far approvare il manifesto per la piccola impresa in Parlamento, sa che i problemi sono questi. La domanda che le faccio è, tra il no comprensibile, a cui paghiamo tutti il giusto tributo di riconoscenza del Tesoro, e il nuovo ministro Paolo Romani, so che è diventato anche suo consulente per i problemi delle piccole imprese, la sua opinione è che si può sbloccare qualcosa, seppure in questa atmosfera di tensione politica crescente? Ma secondo me sì, anche perché la cosa peggiore è continuare a trascinare il problema senza affrontarlo. Quindi il problema va affrontato, io sono d'accordissimo sulle sanzioni patrimoniali per i politici, ma anche per i dirigenti, esatto, per i responsabili dei procedimenti, perché se ci sono impegni devono essere onorati subito, perché poi se no a fine anno non sono spesi, giustamente il ministro del Tesoro o gli assessori al bilancio portano via i fondi non spesi, però questo moltiplica tutto. Poi si possono, ottima mi sembra anche l'idea dell'Istituto Bruno Leoni, come sempre, perché anzi se avete bisogno di un volontario vengo anch'io. Di questa orologio del debito pubblico di cui prossimamente risentirete parlare, come sentite iniziative dal basso? Perché la mia opinione, lo dico sinceramente, fossi io ministro del Tesoro lo metterei io nelle piazze italiane per fare capire a tutti i contribuenti quanto pesante è il gioco dei soldi sottratti alle tasche di chi lavora, crea reddito, deve pensare ai propri figli e deve pensare anche a mantenere il debito pubblico. Ma se lo Stato non ci pensa, ci penseremo noi. E dal piccolo, chi dirà che siamo provocatori e che vogliamo meno tasse, noi risponderemo sì, solo con meno tasse e meno spesa pubblica, non più, con più deficit si cresce di più e si rispettano anche meglio i termini di pagamento. Speriamo su questi 30 giorni che i 30 giorni non siano ancora una grida manzoniana. Grazie quindi a Lara Comi al Parlamento Europeo, a Raffaello Vignali, Parlamento Italiano, a Paolo Buzzetti, Presidente dell'ANCE, Davide Cervellini, abbiamo fatto parlare un po' troppo poco, il Presidente di Tiflo System, grazie a voi tutti, e in regia Carmelo Lauricella, in redazione Alessandro Marco Tulli, Franco Piantanida che ci assiste, grazie a cui andiamo in onda, linea al giornale radio.